In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Particolarissima della storia dell'Occidente, un'epoca che è stata celebrata da film, spettacoli, illustrazioni, raccontando, diciamo così, il Far West, i lontani territori dell'Ovest dell'America settentrionale, dove i pionieri, invasori in effetti, si erano spinti per conquistare nuove terre, e tutti quelli della mia generazione, ma credo anche delle generazioni seguenti, hanno giocato ai cowboy, agli indiani. Ne abbiamo parlato spesso, i cowboy erano i buoni e gli indiani erano i cattivi, poi solo da adulti abbiamo capito che non era esattamente così. Comunque, stiamo per raccontare una delle storie più romanzate e mitizzate dell'Occidente, con i buoni e i cattivi, oppure, per dirla alla loro maniera, i buoni, i brutti e i cattivi. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Raccogli il fucile, carica e spara. Questa è una delle scene più famose del film di Sergio Leone, Per un pugno di dollari. E parlando di Far West, non si può non pensare appunto ai western, ai duelli, a Clint Eastwood, a Franco Nero, alle musiche di Ennio Morricone. Però tutto quello che pensiamo di sapere sulle lontane terre del selvaggio West in realtà è stato inventato proprio dai set di Hollywood. E il mito della frontiera, che era nato ancora prima con scrittori dell'Ottocento come Fenimore Cooper, che lo stesso scrittore che dopo la pubblicazione dell'ultimo dei Moicani ammise di non avere mai visto un pelle rossa in vita sua. E in effetti i cowboy non sono proprio gli eroi che ci immaginiamo, e loro è più un mestiere da disperati, disposti a sopportare una vita dura. Non portano i capelli a falda larga, non indossano i jeans. Un altro falso storico riguarda le armi. In tutti i western la scena è sempre la stessa: il duello, i due pistoleri che dopo infiniti giochi di sguardi estraggono la pistola dalla fondina, cercano di sparare più veloce possibile. Poi in realtà la pistola tamburo, la Colt, inventata all'inizio dell'Ottocento, non era precisa come una pistola di oggi. Ci voleva tempo per prendere la mira, spesso bisognava impugnarla con due mani. Però c'era un uomo che si racconta fosse capace di sparare con una mano anche da un cavallo da corsa. Quest'uomo è il nostro protagonista di oggi, Buffalo Bill. E la storia che sto per raccontarvi è una storia che io non riuscirei a dimostrare, insomma nessuno sa fino a che punto sia vera, però è una di quelle storie che ha contribuito a far grande il suo nome. Buffalo Bill non è un nome di battesimo, è una specie di titolo onorifico che si attribuisce a chi si distingue nella caccia al bisonte. Fino al 1870 questo nome apparteneva a un certo William Comstock, che un giorno verrà sfidato a caccia da un ragazzo di 24 anni che si chiama William, anche lui William Frederick Cody. Cody nasce in una fattoria dell'Iowa nel 1846, la famiglia si trasferisce in Kansas, madre contadina, padre cowboy. Oltre a guardare le mucche, il padre è un convinto antischiavista. Questo è un problema nell'America della frontiera, insomma la famiglia viene perseguitata, il padre morirà nel 1857 per un colpo di pugnale dopo un discorso contro lo schiavismo. William, orfano di padre a 11 anni e qualche anno dopo rimane colpito da un annuncio in un saloon che recita così: occorrono ragazzi sotto i 18 anni, svelti, esperti cavalieri, consapevoli di rischiare la morte ogni giorno. Sì, preferiscono gli orfani. È un annuncio per diventare Pony Express, un lavoro ben diverso dai Pony Express di oggi. Lui ha 15 anni, è orfano e non vede l'ora di assistere coi suoi occhi alla costruzione dell'America, la frontiera, la ferrovia, cose fantastiche di cui ha solo sentito parlare, che stanno diventando un mito. Attorno alla ferrovia, insomma, si è svolta la storia di decenni di quel paese. Lui a scuola non è molto bravo, insomma, questa è un'altra spinta per partire. Inizia a lavorare come Pony Express e questo è il trailer del film Pony Express del 1957. Ci sono due uomini a cavallo del Pony Express che hanno cominciato la corsa verso un viaggio avventuroso attraverso il paese. Per attraversarlo non ci vogliono più 180 giorni, ma 10. Dietro la nascita del Pony Express ci sono due figure immortali del West: Buffalo Bill Cody, interpretato da Charlton Heston, e Wild Bill Hickok, interpretato da Forrest Tucker. Siamo nel 1860, il Pony Express è un servizio di posta prioritaria, se così si può dire, attraversa il Nord America, dal Missouri alla California. Sta nascendo in quel momento e diventa il mezzo di comunicazione più diretto tra Est e Ovest. Trasporto a cavallo, funziona grosso modo così: c'è una rotta sulla quale si alternano come in una staffetta i vari cavalieri. Questo sistema funziona tutto l'anno, riduce i tempi di recapito della posta tra la costa dell'Atlantico e quella del Pacifico a 10 giorni. Non era male per quei tempi. William percorre centinaia e centinaia di chilometri a cavallo ogni giorno. Negli anni 60 dell'Ottocento in America si sta combattendo la guerra di secessione, il nord industriale contro il sud agricolo e schiavista. William è abile a cavallo, conosce il territorio, insomma, si arruola con i nordisti. Forse è spinto da un sentimento di rivalsa, vuole vendicare gli ideali del padre nella guerra civile. Nel 1863 entra nel mitico settimo cavalleggeri come scout, cioè guida, osservatore, spia. È in un campo militare di St. Louis quando durante una sosta incontra una donna di origini italiane, figlia di commercianti del Missouri, si chiama Luisa Federici, 22 anni, William ne ha 19, ma decide che quella ragazza diventerà sua moglie. Si sposano dopo un anno, relazione turbolenta da subito. Lui che ha modi infantili, lei che è una donna orgogliosa, pragmatica. William le fa arrivare un bouquet di fiori dopo il primo incontro e lei risponde che ha bisogno di soldi più che di fiori. La poesia regna, insomma, non passa neanche un anno, arriva la prima figlia, Arta Lucille. Louise la cresce da sola perché William è sempre in giro per lavoro e anche quando la guerra è finita, in realtà lui continua ad andare in giro, è impiegato come guida civile dell'esercito statunitense e della Pacific Railway. Questa è Louise in Buffalo Bill, la sua famiglia, gli amici, la fame, i fallimenti, le tournée del 1979. Willie non era assolutamente capace di conservare i soldi perché era un gran spendaccione. Ero io a dover sistemare sempre tutte le sue cose, i suoi affari, le sue proprietà. Dovevo fare in modo che non si trovasse costretto a ipotecare tutto. La guerra civile del 1865 lascia un paese diviso con gli stati del sud che stanno covando il risentimento verso i vincitori e, insomma, per allentare la tensione bisogna creare una prospettiva diversa, un nuovo inizio, la colonizzazione delle terre dell'ovest che sono tutte vergini. Ricordate che dal fiume Missouri alla costa della California per ora, in quel momento, insomma, ci sono ancora 5 milioni di chilometri quadri di territori inesplorati. C'è la ferrovia che si sta espandendo e la ferrovia sarà al centro di molte imprese legate al Far West e alla storia di Buffalo Bill. È l'inizio della conquista del West. Il fatto di spingersi in territori inesplorati era uno stimolo allo sviluppo e offriva alle persone prospettive di crescita e di successo che sembravano ormai precluse a Est. Tra l'altro c'era il fascino della sfida all'ignoto, un tema da sempre presente nello spirito americano. La sfida è quella: trovare un modo rapido, diretto per arrivare a Ovest. La risposta è una: la ferrovia. La stessa tecnologia che aveva consentito lo spostamento veloce delle truppe durante la guerra, e il territorio su cui costruire è sterminato, insomma si moltiplicano le compagnie ferroviarie, tutto ancora ovviamente privato. Nel 65 William Cody viene impiegato come guida civile della compagnia Pacific Railway e il suo compito è quello di rifornire gli operai di carne e gli operai che devono costruire i binari. Proprio in questo periodo nasce il suo mito, il mito di Buffalo Bill, perché lui tra il 1868 e il 1872 uccide 4.280 bisonti. I bisonti però non sono gli unici abitanti di quelle terre, perché lì ci sono uomini che difendono quei luoghi e sono pronti a difenderli con la vita, sono quelli che abitavano lì, i nativi americani, gli indiani delle grandi pianure, le vere vittime di tutto quello che stiamo raccontando. E gli scontri tra i pelerosi e i coloni sono continui, naturalmente l'esercito americano ha mezzi superiori e loro hanno però i nativi un modo anticonvenzionale di combattere, spesso riescono a cogliere di sorpresa i bianchi, i cowboy. Nel 76 per esempio c'è la più grande sconfitta inflitta dai nativi, la mitica battaglia del Little Big Horn, ne abbiamo parlato al Falco e il Gabbiano, la battaglia nella quale perde la vita il finto eroe buono, il generale Custer, che buono non era per niente. E in quel periodo peraltro nasce questo filone, diciamo, di letteratura di basso livello che deve pubblicizzare le terre dell'Ovest, romanzi a puntate che rendono ovviamente epiche le gesta degli eroi, che screditano i nativi, che diventano i cattivi, e questa cosa rimane fino a noi. Insomma, io da bambino ero convinto che i cattivi fossero gli indiani. Tra gli eroi c'è anche Buffalo Bill, che peraltro è perfetto, tutti notano insomma il suo carisma, conosce bene la frontiera, insomma viene utilizzato, diciamo, per le pubbliche relazioni dell'esercito dell'Ovest, viene anche impiegato nelle spedizioni di caccia, soprattutto quando arriva qualche rappresentante di Stato in visita, insomma diventa l'uomo immagine. E nel 1872 c'è un signore che sta cercando Buffalo Bill tra i soldati, si chiama Ned Buntline, è un romanziere esordiente che ha già raccontato molte mitiche storie sul Far West. Perché la fama, il carisma di Buffalo Bill ha fatto il giro del continente, Ned lo rende protagonista delle sue storie, opuscoli che si vendono nelle fiere per pochi centesimi. Quando lo incontra lui si rende conto che Buffalo Bill soprattutto è un uomo molto simpatico, ha molta presenza scenica, lì ha un'intuizione. William Frederick Buffalo Bill Cody interpreterà se stesso sul palco negli adattamenti teatrali dei racconti di Ned. William Buffalo Bill firma un contratto, un vero e proprio contratto da teatrante, 11 stagioni forma la sua compagnia che comprende altri personaggi reali del West, Wild Bill Hickok, Texas Jack, e intanto continua a lavorare come scout per l'esercito, ma insomma ormai è entrato nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, nel 17 luglio 1876, un mese dopo il massacro di Little Big Horn, il reggimento di Buffalo Bill intercetta una banda di Cheyenne, di guerrieri. Lui è ancora vestito col suo abbigliamento da palcoscenico durante lo scontro, e dopo ore di combattimento lui agita in aria lo scalpo di un guerriero Cheyenne ucciso, il nome è Capelli Gialli, e continua a urlare: primo scalpo per Custer, Buffalo Bill. Insomma, sta dimostrando un teatrante, ma che ci sa anche fare. Il falco, il falco, il falco, e il gabbiano. Buffalo Bill, ottimo cacciatore, soldato, esploratore, ma soprattutto noi nel raccontare il suo personaggio stiamo parlando di un signore che è stato attore, impresario di se stesso, che ha costruito abilmente insomma il suo mito, interpretando se stesso prima a teatro e poi al circo, l'uomo perfetto per interpretare il sogno americano. Gli americani ne hanno avuti parecchi di personaggi da circo, diciamo. Buffalo Bill ha inventato il Buffalo Bill Wild West Show, spettacolo circense nel quale vengono rappresentati episodi della storia americana, battaglie coi pelle rossa. Insomma, sta nascendo il genere western per mano di un uomo nato semplice, cresciuto in questa fattoria del Kansas, figlio di un allevatore ucciso per le sue idee antischiaviste. Il Wild West Show diventa un caso mondiale, Buffalo Bill diventa un essere mitologico, non esiste la televisione, i giornali hanno un pubblico ristretto di lettori acculturati, insomma la storia, l'opinione la sta facendo lui. Peraltro molte delle imprese che lui porta al circo ovviamente non sono vere oppure sono gonfiate, ma questo non importa a nessuno, succede così anche oggi. Insomma, l'unica credibile, anche se poi è incredibile, rappresentazione del West è la sua, e questo è il professor Lewis Warren, autore di Buffalo Bill nella frontiera. I think that the persona of Buffalo Bill becomes useful to him. Credo che il personaggio Buffalo Bill sia stato spesso utile a William, la persona, in un modo moderno, se vogliamo. È una celebrità, uno dei primi eroi globali della storia moderna. Il personaggio Buffalo Bill è un modo per nascondere William Cody. La creazione del Wild West Show come attrazione itinerante è un racconto complesso, difficile da mettere in piedi. Quello è stato il momento in cui la cultura americana è stata riconosciuta come significativa dalla cultura del vecchio continente. Fino alla fine del XIX secolo c'è stata una critica feroce della cultura e dell'arte americana da parte di autori e commediografi inglesi. Chi legge racconti americani? Chi guarda commedie americane? Who watches an American play? Il suo show fa il giro dell'America, la sua vita familiare però è una tragedia. Tra il 70 e l'83 nascono tre figli, Kit Carson, Orra Maud, Irma Louise. Kit e Orra muoiono prima del compimento dei 10 anni, il rapporto con la moglie è molto teso, lui la tradisce continuamente e durante i tour, insomma i tour sono fatti in un certo modo, e dopo la morte di Kit lui comincia a spendere soldi per ottenere attenzioni dalle donne. E la prima istanza di divorzio verrà presentata nel 1883 da William, perché lui, insomma, parla ai giornali, dice che Louisa è fastidiosa. E beh, va così, spesso l'istanza sarà ritirata per la morte di Orra, la famiglia rimarrà unita per superare il lutto, ma in realtà è un matrimonio di facciata, i due non vivono assieme, Louisa continua a mantenere casa e i figli rimanenti nel Nebraska, William gira gli Stati Uniti in tournée perché Buffalo Bill è ancora una star. È una storia dell'America che tutti vogliono sentirsi raccontare, piena di pistoleri, di saloon, di cowboy, di gare a cavallo, di giocatori di carte che non pagano i debiti, bari, avventurieri. Insomma, lo spettacolo di Buffalo Bill non è una semplice rappresentazione, qualcosa di gigantesco, di indimenticabile, direi la prima grande americanata, con gli indiani vestiti e truccati in modo assurdo, con i cowboy con le frange, gli stivali, col cappellone a falda larga, con lo spettacolo che si apre con la sfilata dei cowboy, con due punti centrali, la battaglia del Little Big Horn e l'episodio del primo scalpo per Custer, sangue finto, cadute da stuntman, e c'è tutto, insomma, con i bianchi che sono i civilizzatori, sono i buoni, pelle rossa che sono i ribelli non civilizzati, sono i cattivi da combattere e da deridere. Insomma, nasce, come dire, la prima grande solla mediatica della storia dello spettacolo, passerella per tanti protagonisti della frontiera americana: Toro Seduto, Calamity Jane, l'esploratore Frank North, l'amico Will Bill Hickok, che morirà prima dell'avvio dello spettacolo, ma che in realtà aveva già recitato in teatro con lui. Probabilmente anche lui si sarebbe piegato a questo show business. Lo fa addirittura anche Toro Seduto, che è stanco di combattere questa guerra per lui impossibile da vincere. Insomma, si arrende, è uno dei momenti più tristi, direi. Si arrende all'industria dello spettacolo, si vende per 50 dollari alla settimana più un dollaro e mezzo per ogni foto autografata. Buffalo Bill, che verrà chiamato anche Lunghi Capelli, verrà conosciuto oltre i confini americani con uno spettacolo che è sempre più imponente e organizzato, che viene modificato, vengono aggiunte storie di guerrieri di tutti i tempi e latitudini, e giapponesi, cosacchi, arabi, messicani, tutto fa brodo per fare spettacolo con lo show che arriverà anche in Europa, arriverà in Italia, raccontando insomma tutta questa super fittizia storia della colonizzazione della frontiera americana, spostamenti di carovane che portano centinaia di figuranti, cavalli, spostamenti che vengono fatti di notte per poter mettere in scena lo show ogni giorno in una città diversa. Insomma, Buffalo Bill, di fronte a questo boom, ai sold out, come direbbero i giovani virgulti di oggi, capisce che lui non è un soldato, non è una guida, è anche quello, ma è tante altre cose. In Italia passerà due volte questo tour, nel 1890 e nel 1906. La tournée è lunghissima, tocca numerose città, più di 100 gli spettacoli, con la persona e il personaggio che si coinvolgono in un misto, diciamo, di enfasi e di tristezza, anche perché lui non sa più distinguere tra la sua vita reale e lo spettacolo del West. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Il Wild West Show viene messo in scena a teatro al circo per 30 anni negli Stati Uniti e in Europa. È una delle attrazioni a Londra durante il giubileo d'oro della regina Vittoria del 1889, grande successo all'esposizione mondiale di Chicago del 1893. Questo è un estratto di un articolo del giornale indipendente di Trieste del 1906. Si sta parlando della tappa triestina del tour. Ci sono i vaqueros e poi i cowboys, domatori di cavalli. Corpi asciutti, facce bronze, aria impassibile. Quindi, in una meraviglia di rosso, bianco e oro, montati su magnifiche cavalcature, arabi dalle facce europee. Poi, accompagnandosi con una strana nenia, si precipitò il galoppo dei cosacchi dalle figure ispide, alte, nervorute, asciutte. Più intenso e più significativo si fece l'applauso della folla, vennero i giapponesi. Giallognoli, minuscoli, impassibili. Su tutti spicca e domina il colonnello William Frederick Cody, l'uomo di cui la fama si perde quasi nella leggenda e quasi lo circonfonde di un alone di eroismo. Una bellissima figura d'uomo, eretto sulla persona non più giovanile, chiusa nella veste che gli fu compagna nelle venturose imprese e che, quando si venne alle prove di destrezza, tutti sbalordì con la diabolica abilità della sua carabina. 18.000 persone per ogni data, 4 milioni di spettatori totali. Neanche un giovane rapper oggi farebbe altrettanto. Lo spettacolo che incassa più di $1 milione, però se vi ricordate, insomma, abbiamo già parlato della incapacità di Buffalo Bill a gestire il denaro, lo sperpera, e come si sperperano i soldi? Con le donne che incontri, tranne la moglie, dalla quale peraltro nel frattempo riesce a ottenere il divorzio, e allora insomma le mogli forse erano anche più buone in sede di alimenti, mi auguro per lui. L'ex massacratore di bisonti non invecchia mai, lo spettacolo rimane sempre lo stesso e diverte le folle. Nel 1899 fondano addirittura un settimanale dedicato a lui, il Cody Interpose, che peraltro, pensate, è presente ancora oggi nelle edicole americane. Cioè, pensate all'evoluzione di un popolo. È l'inizio del Novecento, arriva la Belle Époque, nasce il cinema e Cody non sa resistere al fascino del cinema. avvia una casa di produzione tutta sua. Naturalmente è arguto, ma anche sprovveduto, è stordito dagli incassi, si fa prendere da manie di grandezza, si infila in affari che poi saranno dei fiaschi, fonda addirittura una città che chiama col suo nome Cody nel Wyoming e li fa costruire un albergo lussuoso nel quale ospita gratuitamente tutti quelli che fossero in grado di dimostrare con le loro esibizioni di essere degli autentici cowboy. Questo è un estratto del film Buffalo Bill e gli indiani del 76, in cui Ned Buntline parla con Buffalo Bill. Tra 100 anni ci saranno ancora ragazzi che urleranno il tuo nome e tu non sei più un ragazzo normale, perché mi fa venire i brividi solo essere al tuo fianco. Tu non cambi mai. È proprio per questo che la gente continua a pagare per venirmi a vedere. A Buffalo Bill, una delle cose più reali della mia vita è stata inventarti. A Trieste conquista la platea, a Roma lo stesso anno viene fischiato perché ormai quello che comincia a apparire sull'arena è un uomo anziano dai passi incerti, le acrobazie a cavallo sono ricordi lontani e il pubblico non perdona, lo sapete, la gente può essere affettuosa ma può essere anche molto cattiva, il tracollo è vertiginoso, in pochi anni lui perde tutto quello che ha guadagnato, non ha neanche più la moglie Luisa che regola i conti per lui, poi ci sono i reumatismi che rendono impossibili l'evoluzione in sella, poi c'è la miopia che gli impedisce di centrare bersagli troppo lontani, è incapace di salire da solo a sella, insomma è una parodia di tutto quello che è stato, una parodia come il parrucchino che porta. Nel 1914 i tempi sono cambiati, scoppia una guerra di ben diverse proporzioni, i cowboy e le storie del West stanno perdendo il loro fascino e Buffalo Bill, nonostante la fortuna accumulata per tutta la vita, muore da solo in miseria a Denver nel 17 a 71 anni. Non ci interessa più sapere se le sue gesta fossero vere o false, dopo più di 100 anni lui a modo suo è ancora l'eroe del West, di quell'America ingenua che pochi passi ha fatto ancora, ma insomma lui incarna quello di cui l'America in quel momento aveva bisogno. Ognuno ha bisogno dei miti che si merita e ha bisogno dei suoi dei immortali che vuole. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Alessandra Nardini, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti, ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.